le mie conoscenze, quindi magari su qualche terreno, su qualche campo non sarò senz'altro all'altezza del compito che mi è stato affidato. Dallo schema che ho preparato e ho dato, e anche dal titolo vedrete che compare questo termine delle regole. È, diciamo, non so se si può dire una particolarità unica, ma senz'altro è una particolarità del linguaggio statutario genovese, almeno a partire da metà del 300. Io, infatti, nell'appendice, nella cronologia degli statuti, sono partito dal 1340, da quando a Genova incomincia il periodo del dogato, del sistema di governo dogale, quando Simone Boccanegra appunto fece preparare queste regole communis iannue. E come vedete anche per il periodo trecentesco molte di queste regole non sono più rimaste. Regole da un lato, capitula dall'altro, cioè nel linguaggio del tempo, 300-400, ma anche dopo, come vedremo, non compare normalmente il termine statutum o statuta. Si parla di regole, di capitula. In alcuni testi più antichi, fine 200, inizi 300, compare anche un termine che viene usato a Firenze, e cioè tractatus. Che differenza c'è fra capitula e regule? Normalmente i capitula sono quelli che diciamo convenzionalmente definiamo statuti civili e criminali. Cioè sono quegli statuti che contengono il diritto processuale sostanziale in campo civile e in campo penale. Questi testi questi vengono anche chiamati in altro modo, parvum volumen, liber novus, liber parvus. Il linguaggio aveva molte, il linguaggio amministrativo di cancelleria soprattutto indicava questi oggetti con molte locuzioni, ma sostanzialmente compare normalmente sempre il termine capitulo, volumen parvum capitulorum. Le regole invece sono quegli statuti, quella parte che in altri stati, in altre città, degli statuti sono dedicate al sistema, usiamo un termine forse improprio ma che può essere utile, diciamo che lo uso in modo utile, cioè la parte costituzionale, cioè quel sistema di norme che regolamentava l'organizzazione dello Stato, i sistemi elettorali, le principali competenze degli organi di governo, le principali competenze degli organi giudiziari. Offriva cioè il quadro politico istituzionale complessivo. A fianco di questi due grandi corpi, il capitula per il diritto sostanziale, processuale, civile e criminale, le regole del comune per, diciamo, la costituzione del comune, vi erano poi altre regole, le regole delle singole magistrature, dei singoli uffici. E badate bene, queste regole, come spero di riuscire a dimostrare, erano altrettanto importanti, non venivano richiamate come uno dei momenti della gerarchia delle fonti. Ma nell'attività pratica dei giudici, nell'attività pratica degli avvocati, quindi nella vita giudiziaria, le regole delle magistrature, diciamo le regole dell'ufficio di mercanzia, le regole dei sindacatori, le regole dei consoli di Calleghe, che erano una magistratura che si occupava dell'amministrazione finanziaria nel 3400, ebbene tutte queste regole erano utilizzate come una delle fonti del diritto. Ci si richiamava ad esse nello stesso modo e con la stessa autorità sostanzialmente con cui ci si richiamava ora ai capitula, ora alle regole del comune. Quindi due grandi blocchi, capitola da un lato, regole dall'altro, divise per, diciamo, in modo tematico. Il processo fu un processo naturalmente non semplice, non lineare, e anzi, diciamo, per certi aspetti anche con dei ripensamenti, con delle contraddizioni. Se noi consideriamo gli statuti civili e criminali, cioè quelli che ho chiamato capitula, da un punto di vista formale, e consideriamo i capitula così come sono stati sostanzialmente redatti nel 1375, che poi sono il momento direi fondamentale nella storia statutaria genovese dal 300 alla fine del 500. Questi capitoli sono divisi in quattro libri più un quinto per le materie criminali, hanno scorporato il diritto commerciale, cioè, mentre negli statuti duecenteschi, su cui ci sono dei problemi anche di trasmissione del testo, ma comunque è stato trasmesso un testo redatto all'inizio del 300, mentre in questi statuti duecenteschi il diritto commerciale era ancora inglobato all'interno dei capitula, la redazione che viene appunto fatta nel 1375 è una redazione statutaria puramente in materie civili e criminali, escluso quindi il diritto commerciale. Ed è sono statuti in cui anche, diciamo così, si trovano poche, relativamente poche informazioni, ce ne sono molte, ma rispetto ad altri testi, relativamente poche informazioni sul sistema degli uffici chiamiamo giudiziari, i soggetti che amministravano giustizia. Ve ne è abbastanza, ma appunto era assolutamente indispensabile riferirsi ad altre fonti. Cioè, se da un punto di vista diciamo di analisi giuridica o di un certo tipo di storiografia giuridica, gli statuti del 1375 possono essere visti come un prodotto formalmente raffinato, in realtà dal punto di vista della ricostruzione storica e come fonte storica non sono poi un risultato così eccelso ed eccezionale. In realtà io credo che riassumere, gli statuti non sono leggibili e comprensibili se non insieme alle regole. Cioè, gli statuti civili e criminali hanno il loro interlocutore, il loro momento indispensabile di confronto nel testo di tipo costituzionale. Senza le regole del comune, senza le regole delle magistrature, questi testi non ci dicono più che tanto. Non a caso noi troviamo che la stessa materia o lo stesso problema viene affrontato in prospettive diverse, ora nelle regole, ora nei capitoli. Vi è per esempio un capitolo che è dedicato a uno dei tanti uffici che vi è in quell'altro schema che io vi ho offerto, che sono i consoli di ragione, che erano un ufficio che decideva le cause inferiore alle 100 lire. Ebbene, negli statuti civili e criminali vengono discusse determinati aspetti delle loro competenze, nelle regole non solo ci sono tutti i problemi connessi alle elezioni, ma si affrontano anche altri aspetti. questo diciamo politica editoriale, politica del diritto di redazione statutaria, come vi ho detto, ebbe delle oscillazioni forti. Tanto è vero che nel 1403-1404, in un periodo in cui Genova era sottoposta alla sovranità francese e governatore di Genova era il famoso maresciallo di Boucicaut, vi fu una riforma statutaria che purtroppo non è rimasta nella sua integrità, sono rimasti solo circa la metà, un po' meno, neanche del testo definitivo, ma della bozza di lavoro dei regulatores, che è conservata ancora a Parigi, ma noi possiamo capire come, in parte almeno, capire la struttura, il progetto che avevano questi regulatores sotto la presenza, direi, importante di Boucicaut, da alcuni indici di questo magnum volumen capitularum ioannue, che sono rimasti nella cancelleria. Alcuni cancelliere dei primi anni del Cinquecento fece molti indici dell'archivio, fra cui appunto del magnum volumen capitulorum del 1403-1404. Questo magnum volume era diviso in 7 libri e, diciamo, ritornava, se così si può dire, completamente indietro. Riunificava in un unico corpo tutta la legislazione. Erano il sesto libro diviso in parti, erano gli statuti civili e criminali, però poi vi erano tutte le regole delle singole magistrature, vi erano le regole del comune e così via. Ricordiamo Boucicaut soprattutto perché, anche se non sono rimaste oggi, non speriamo, però finora non sono state trovate, alcuni di questi uffici, come l'ufficio di mercanzia, l'ufficio di Gazzaria, l'ufficio dei sindacatori, ebbero una nuova risistemazione delle loro regole che noi troviamo citate e utilizzate dai giuristi genovesi, dagli avvocati, fino a 600 inoltrato. Cioè ancora 600 inoltrato, quando vi era stato grandissimi cambiamenti dal punto di vista delle politiche statutarie, delle edizioni di statuti completamente riscritti, ebbene ci si rifà ancora al magnum volume capitulorum del 1403. Fu un'esperienza, diciamo, sfortunata dal punto di vista della conservazione del testo, che non è rimasto nella sua completezza, e direi il segno di come si voleva, in un certo senso un po' difficile da valutare, visto che per il periodo la documentazione archivistica è estremamente scarna e piena di buchi. Probabilmente, finito il governo di Boucicaut, che fu un governo molto contraddittorio, è stato valutato dalla storiografia, Boucicaut usò la mano forte contro questi riottosi e faziosi genovesi, sostanzialmente sottopose le arti ha un controllo molto rigido del comune, infatti creò una magistratura dei protettori delle arti, dei rettori delle arti, che dovevano decidere loro il funzionamento delle arti, e non vi erano più i consoli liberamente eletti. All'inizio, quando vi fu questo proclama e qualche arte osò eleggere nonostante tutto i consoli furono imprigionati, alcuni furono anche impiccati. Dico, forse perché usò una mano molto dura, nel 1413-1414, quando furono cacciati i francesi e incominciò un nuovo periodo di governo del patriziato cittadino, dei dogi Adorno e Fregoso, che si alternavano nelle loro lotte faziose, si ritornò di nuovo alla separazione. Nel 1413 un volume di regole, nel 1414 un volume di capitula. Sostanzialmente ricalcano nella struttura i testi rispettivamente del 1363 e del 1375. Ho detto ricalcano nella struttura, In realtà un'analisi testuale, non vi sono edizioni se non per le regole del 1363, fanno vedere che se questi regolatori ripresero il lavoro dei loro predecessori, però diciamo non vi è articolo, non vi è rubrica che non sia stata in qualche modo corretta. E quindi da un certo punto di vista sarebbe molto utile poter disporre di edizioni. Quindi 1413-1414 si ripropone un'immagine dello statuto genovese come da un lato gli statuti civili e criminali, dall'altro le regole costituzionali. E per anticipare, diciamo così, una parte delle conclusioni, formalmente questo fu il modello che rimase da allora in avanti, nel senso che le successive revisioni statutarie avvennero nel 500, nel 1556-1558 vi fu la pubblicazione separata degli statuti criminali soli, nel 1588-89 la pubblicazione degli statuti civili. E diciamo che dal punto di vista del contenuto molte delle materie vengono ancora trattate secondo il modello degli statuti tre-quattrocenteschi. Quindi il lavoro fatto fra il 1375 e il 1413 fu un lavoro importante. Naturalmente un secolo e mezzo di storia non era passato in vano. Io però mi sono anche posto un altro tipo di problema, cioè non vedere solo l'aspetto formale della elaborazione statutaria, ma partendo da un dato di fatto, e cioè che di questi statuti quattrocenteschi abbiamo un certo numero di esemplari manoscritti, più o meno tutti collocabili tra il 1400. Diciamo uno potrebbe anche essere la copia ufficiale, la copia di cancelleria, infatti è l'unico pergamenaceo con iniziali miniate, ma tutti gli altri che si collocano fra 1420 e 1480 i manoscritti presentano una particolarità, vale a dire gli statuti, il capitolo civile e criminali non riproducono il testo, diciamo, archetipo, il testo così come era uscito dalla penna dei capitulatori. Gli statuti contengono aggiunte, additiones, e fin qui, diciamo, potrebbe essere normale. In fondo, chi si faceva copiare uno statuto aggiornava a margine o in fondo con le leggi che erano state promulgate nel frattempo. Ma l'interesse non è tanto questo, quanto il fatto che normalmente nel quarto libro, oppure in un libro, in una serie di capitoli straordinaria, cosiddetti, vengono riprese nuovamente la trattazione delle materie, soprattutto commercialistiche, ma non solo, che noi avevamo visto, erano state tolte e poi riprese nel Magnum Volumen di Busicone. Non solo vengono riprese queste, ma vengono anche riprese, ad esempio, capitoli dalle regole delle magistrature. È un po' complesso, mi rendo conto, cioè abbiamo un testo, 1414, diviso in quattro libri, e poi successivamente, diciamo, chi faceva copiare gli statuti aggiungeva materie che erano state trattate negli statuti precedenti, che erano state scartate dai capitulatores, andandole a pescare nelle diverse, diciamo, fonti disponibili, regole, magnum volume. Quindi noi abbiamo due prove, da un lato quello che è rimasto dal punto di vista della tradizione manoscritta, e tutti questi manoscritti sono tutti diversi fra di loro, non vi sono due manoscritti uguali. Questo Pier Giovanni, che è quello che ha studiato più a lungo la tradizione degli statuti genovesi, ha preparato appunto nel suo libro un indice di questi. Dall'indice che ha preparato si vede che non vi sono due esemplari manoscritti identici. Ciascuno ha delle varianti nei capitoli, e io aggiungo non solo nei capitoli, ma anche ciascun capitolo presenta delle differenze nella stesura, nel contenuto, spesso significative. Ma non vi è solo questo. È interessante, ad esempio, ho studiato la raccolta dei consiglia di un giurista dei primi del 400, Bartolomeo Bosco, un giurista genovese che aveva studiato all'Università di Pavia, e questi suoi consiglia sono per certi aspetti una fonte di grande interesse. Sono una fonte di grande interesse non tanto per le materie di per sé trattate, perché poi in fondo queste raccolte di consiglia, diciamo, presentano dei modelli standard sostanzialmente. Viene sempre citato Bartolo e Baldo e poi qualche altra autorità, riferimenti al Corpus Iuris. Quello che è interessante nella raccolta dei consiglia di Bartolomeo Bosco è il continuo confronto con la legislazione del comune, con gli statuti. E da alcuni di questi consigli si vede come Bartolomeo Bosco faceva un lavoro, possiamo dire, di carattere storico erudito e giuridico nel momento in cui doveva valutare l'applicazione e l'applicabilità di una legge. Nel senso che spesso si pone il problema di quale stesura è ancora valida nel momento in cui deve pronunciare il suo consiglio. E sono molto interessanti alcuni di questi consigli di Bosco, proprio perché non solo ci danno la testimonianza di regole come quelle del 1382-83 che vi ho segnato, del doge Nicola Guarco, di cui non vi sono praticamente altre testimonianze, ma ci fa vedere come l'operatore del diritto doveva sostanzialmente lavorare su una molteplicità di testi statutari. L'esempio, uno degli esempi più direi interessanti, è proprio un capitolo che ha una storia testuale intricatissima. È un capitolo intitolato De prohibita intromissione justitie, in cui veniva stabilito, nella sua prima stesura ritrovata del 1363, quindi si trovava nelle regole, in questo capitolo si stabiliva che il doge e il consiglio degli anziani non potevano intromettersi nel corso dell'amministrazione della giustizia e che ciascuna magistratura, ciascun ufficio doveva seguire gli statuti e le sue regole. Ora, di questa appunto regola noi la ritroviamo sotto forma di capitola nelle redazioni statutarie, sotto forma molto più lunga, molto più estesa, in una appunto perduta, ma sono rimasti degli estratti, raccolta di regole dei sindacatores, e successivamente ancora nel corso del 400 fu ulteriormente modificata. Ebbene, il Bosco ricostruisce la storia di questo capitulum regula, che si trova in diversi testi, in diverse raccolte, passando ad esempio a un giurista di metà 500, Giovanni Agostino Carroccio, sconosciuto, non ha lasciato niente, però ha lasciato alcune cose molto interessanti. Innanzitutto era riuscito a portare via dall'archivio del comune le edizioni, i testi statutari più antichi. Saranno restituiti da un nipote solo nel 1640. Ma ha lasciato, ho trovato, uno suo zibaldone, un grosso manoscritto di 500 pagine, in cui sono annotate in delizioso disordine capitoli di leggi, capitoli di statuti. Ebbene, siamo negli anni 1568-1575, ogni tanto vi sono note, notazioni di date, e Giovanni Agostino Caroccio va a recuperare, direi con una grande frequenza, testi trecenteschi, inizio 400, benché ormai fossimo già in un periodo in cui vi era a disposizione già una prima edizione e una ristampa degli statuta e decreta comunisiani. Nel 1498, quando viene fatta appunto la prima edizione a stampa degli statuti, viene fatta a Bologna da un intellettuale della provincia del dominio che veniva da Arcola, Giovanni Antonio Maria Visdomini. Questa prima edizione in fondo è fatta secondo quei moduli dei manoscritti di cui vi ho parlato, cioè vi è la struttura così come era stata stabilita più materie diverse, soprattutto materie commercialistiche, capitoli di uffici. Non per niente, questo forse è un problema che è già venuto fuori, che poi magari potremo discutere meglio, il significato della presenza o meno del diritto commerciale, del diritto mercantile all'interno degli statuti. Visdomini pubblica appunto questi statuti, nella premessa dice di aver avuto a disposizione quattro manoscritti di cui poi lui aveva preparato questo testo, e dice che è molto importante la pubblicazione della legge. Fa un discorso, direi, interessante sul fatto che è importante che la legge sia a disposizione di tutti. Dice, fino adesso gli statuti potevano essere posseduti sostanzialmente solo da giurisperiti, costava molto farli riprodurre, e probabilmente vi erano anche dei problemi di validità di questi manoscritti. Ancora nel 600, un uomo politico genovese nei primi anni del 600, Andrea Spinola, pone il problema della validità della legge che non viene stampata. Dice, se non c'è la pubblicazione, se non c'è la possibilità per tutti di possedere la legge, che validità ha questa legge? Legge o statuto è lo stesso in questo caso. E individuava anche chi era ostile alla pubblicazione delle leggi. Secondo Andrea Spinola vi erano due categorie di persone che non volevano la stampa delle leggi: i cancellieri e i giuristi. Perché diceva, i cancellieri traggono una grande fonte di reddito dalla produzione e dalla trasmissione di copie delle leggi e degli statuti. I giuristi dava un'immagine, direi, tradizionale del giurista che cerca di imbrogliare le carte sostanzialmente, quindi meno si conosce la legge, il giurista più potere ha. Io la sto facendo un po' lunga, cerco di stringere su alcuni problemi. Un'ultima annotazione molto rapida, ho detto i cancellieri. A Genova, senz'altro fino alla fine del 400, poi se ne perdono le tracce, vi era un notaio che era appunto chiamato statutarius, direi anche questa forse è una particolarità nel linguaggio amministrativo, direbbe Rezzasco, una particolarità nel senso che normalmente lo statutario è colui che elabora lo statuto, invece a Genova lo statutario era lo scriba capitulorum, cioè colui che doveva conservare i manoscritti e tarne estratti. Infatti si trovano negli atti dei notai giudiziari talvolta appunto estratti, extractum est volumen magnum capitulorum, io notaio degli statuti talvolta. Questo era un primo problema che volevo affrontare. Il secondo problema, lo statuto. Se noi prendiamo lo statuto come testo che viene prodotto in un tale anno, lo statuto, anche le regole, diciamo questa divaricazione, questa biforcazione genovese, noi diciamo che lo statuto ci dà un'immagine, una fotografia da un certo punto di vista, ma immobile. Noi abbiamo lo stato delle cose in quel momento, o eventualmente si potrebbe anche dire che insieme alla fotografia possiamo anche leggere un progetto. Nel senso che senz'altro alcune differenze che noi troviamo fra le regole del 1413 e quelle precedenti del 1363 riguardano alcuni aspetti della organizzazione interna cittadina, dell'organizzazione territoriale del popolo. Cioè, questo è un tema che abbastanza stranamente è stato completamente trascurato e tralasciato dalla storiografia genovese, ma l'organizzazione interna dei populares a Genova era organizzata su base territoriale, su diversi tipi di, con diversi tipi di nomi, di partizione, con falonieri, vicari, con estagi e così via, con estabili, termini che ricorrono anche in altre esperienze cittadine. Non se ne mai, tutti dicono, ma non servivano, non funzionavano, tutto era concentrato nel Consiglio degli Anziani. Non è vero. Andando a studiare nelle carte, ad esempio, che ho fortunatamente o fortunosamente trovato, di un cancelliere dei vicedogi, si ritrovano gli elenchi ancora a metà 400 di questi conestabili, di questi vicari. E questo stava a indicare quindi che queste forme di organizzazione dei populares all'interno della città erano ancora perfettamente vive e funzionanti, senz'altro fino a metà 400. Dicevo, differenze fra uno statuto e l'altro, fra una regola e l'altra. Nel 1363 i conestabili sono sempre presenti, sempre richiamati, sono coloro che formano, diciamo, le prime commissioni elettorali per la nomina del Consiglio degli Anziani. All'inizio del 400, dopo il governo di Boucicault, senz'altro vengono messi un po' da parte. Però dicevo, lo statuto dà una fotografia immobile. E io invece penso che sia necessario non solo studiare diciamo, il sistema in modo sincronico, così come è a un dato momento, come ci viene dato dallo statuto, ma sia necessario in un certo senso usare lo statuto come punto di partenza, quindi desacralizzarlo da un certo punto di vista e vedere poi anche la legislazione ordinaria. Secondo me lo statuto serve, ma non può essere cristallizzato, preso come l'unica forma. Le addiziones sono un esempio del fatto che vi era una continua produzione normativa che si affiancava e si aggiungeva allo statuto o alle regole, non solo. E qui arriviamo al secondo punto. Secondo me lo statuto non si capisce senza avere presente, senza studiare contestualmente il sistema degli uffici, il sistema delle magistrature. Io ho fatto uno schema di uffici vari che vi erano a Genova fra la fine del 300 e il 500 e ad esempio c'è una fra le tante frecce e freccettine che ho messo, quelli chiamati i rotti che poi confluiranno nella rotta civile, era una magistratura che si occupava dei casi di fallimento. E come vedete è una che ha due frecce, da una parte confluisce nella rota civile, dall'altra ha delle frecce discontinue a indicare che continua a vivere nonostante tutto. Cosa voglio dire? Voglio dire che ad esempio lungo tutto il periodo che va dagli inizi del 400 fino agli anni 30-40 del 600, un tema importante quale è quello del diritto fallimentare, e in una città connotata in senso commerciale e imprenditoriale quale era Genova, voi capite l'importanza che poteva avere un istituto quale quello del fallimento. Ebbene, i fallimenti andavano sotto una magistratura che si chiamava dei Rotti, ma che continuava ad essere soppressa, cambiata, trasformata, cioè non, era una magistratura che aveva vita brevissima sostanzialmente, mentre vi sono uffici che incominciano nel 300 e continueranno fino al 1797, finché non arriva Napoleone con le sue truppe. I Rotti non riescono a continuare, non riescono a dare continuità al loro lavoro. Si ricorre un po' a questo ufficio di cittadini, poi le loro competenze vengono soppresse e date a giuristi forestieri, come appunto il vicari o il podestà. Nel 528 vengono fatti confluire nella rotta, però dopo 20 anni ritornano. Allora, se noi guardiamo lo statuto e quello che ci dice sul fallimento, ebbene noi sappiamo da un punto di vista della teoria cosa e come si doveva procedere nei casi di fallimento, ma ben diverso potete capire se le procedure fallimentari dipendevano dal dogi o dal vice dogi o da una magistratura formata da mercanti in cui ad esempio era vietato l'uso del consilium sapientis, o se invece il fallimento veniva trattato in una magistratura formata da giurisperiti, da doctores. Cioè, è interessante studiare la storia dei testi che regolamentano l'istituto fallimentare, ma io credo bisogna anche vedere come venivano applicati questi testi, da chi. Quindi ho posto un quesito nel mio schema: gerarchia delle fonti o gerarchia delle magistrature? Uno dei, direi, temi classici della storiografia giuridica è il problema della gerarchia delle fonti. Non vorrei sembrare azzardato, ma direi che in fondo, parte il libro di Cozzi su Venezia, i libri sulle gerarchie delle fonti ci dicono tutti la stessa cosa alla fin fine, che c'era lo statuto, qualche volta c'era o non c'era le consuetudini e poi c'era il diritto comune. Ho fatto l'esempio del Cozzi proprio perché è un libro che, applicandosi a una realtà in cui come fonte non esisteva nella gerarchia del diritto romano, si ponevano problemi del tutto diversi. Genova, dal punto di vista della gerarchia delle fonti, è sostanzialmente, direi, molto semplice: statuti, iura romana, statuti, ius comune. In realtà io credo che insieme al problema della gerarchia delle fonti, quando si studiano gli statuti bisognerebbe cercare di elaborare una immagine strutturata degli uffici. C'è il ricordato Bartolomeo Bosco che in uno dei suoi consigli scriveva: utile et favorabile est habere plures iudices. Beh, e questa è una cosa, constatava il fatto che su determinate materie vi erano spesso conflitti di competenze in quanto le competenze erano sovrapposte. Ma non lo vedeva come un aspetto negativo. Lui diceva: è utile e favorevole avere più giudici. Lui scrive da giurista, da doctor, agli inizi del 600, un funzionario che affrontava il problema della molteplicità delle giurisdizioni in quel campo che possiamo chiamare della polizia, dell'ordine, dell'ordinamento interno. Era un funzionario dell'ufficio dei poveri, cioè coloro che dovevano regolamentare le masse urbane, e diceva: è molto utile che noi attribuiamo, manteniamo la giurisdizione criminale a questi uffici come quello dell'assistenza, dell'abbondanza dei poveri, e che non sia solo la rota criminale, proprio perché è utile che in città vi siano più enti, più uffici che addetti a reprimere gli stessi comportamenti. Il problema erano le competenze, i conflitti di competenze, i conflitti delle procedure. Quindi poniamolo come un problema. Gerarchia degli uffici, gerarchia delle magistrature, non viste solo come il sistema degli appelli, perché questo potrebbe essere un aspetto del tema, cioè la gerarchia degli appelli, questo è un aspetto senz'altro, ma non è solo questo. Secondo me c'è anche un problema di intrecci, di sovrapposizione. Secondo tema, vi è un'immagine, direi forse in parte di maniera, forse me l'ero fatta io perché non avevo studiato, ma quando si parla di queste realtà cittadine, il discorso si centra normalmente sull'esistenza o meno del podestà e della corte podestarile, dei suoi giudici, della famiglia del podestà, cioè di quel funzionario che aveva più o meno competenze e così via. Per il periodo moderno l'attenzione si è centrata soprattutto sui grandi tribunali, le rote. In realtà lo statuto, le regole ci danno un'immagine molto più ricca, molto più complessa. Vi è il podestà e la sua corte, tutti doctores, ma al contempo noi abbiamo una molteplicità di uffici con composizione, diciamo, degli ufficiali mista. Vi sono uffici che sono composti solo da dottores, vi sono uffici sempre, diciamo, nel campo giudiziario, di coloro che amministrano giustizia, che amministrano diritto, che devono quindi leggere e conoscere gli statuti da un certo punto di vista. Vi sono uffici composti solo da laici, da mercanti, oppure magari che hanno una composizione mista. O vi sono anche, questa è una caratteristica non solo genovese, ma che a Genova aveva una sua strutturazione, direi abbastanza interessante, tutte quelle forme di delega, di giudizi delegati, di giudici commissariati, di boni homines. A Genova si chiamavano boni viri de tabula, cioè cittadini cui erano delegate dal podestà, dall'ufficio di mercanzia, dal doge e così via, il potere di, diciamo così per riassumere, dirimere controversie. Ora, questi boni viri erano semplici cittadini. Ho detto la peculiarità per il periodo 3-400esco solo, perché nel 500 cambierà la situazione genovese, è dato dal fatto che sono rimasti gli elenchi di questi boni viri. Venivano nominati dal Consiglio degli Anziani e poi, quando si ponevano dei problemi appunto di cause delegate, venivano sorteggiati. L'interesse di questi elenchi è che i boni viri sono scelti secondo un rigido criterio di rispecchiamento del sistema delle fazioni cittadine, nobili, popolari e distinti al loro interno ancora fino al 1528 fra Guelfi e Ghibellini, bianchi e neri, e i popolari a loro volta distinti in mercatores e artifices. Quindi si può dire che i doctores forestieri che componevano la curia del podestà, del vicario e dei giudici, erano accerchiati da un lato da questi uffici composti da laici e dall'altro dai doctores locali, dai membri del collegio dei dottori, cui appunto gli statuti delegavano una importante funzione a livello di appello. Sostanzialmente, per semplificare, non è proprio così, ma la maggior parte degli appelli in materia civile finivano ai dottori del collegio. E qui vorrei brevemente sottolineare una cosa, cioè che nella legislazione di fine 400, naturalmente essendo proprio negli ultimi anni non risulta dagli statuti, però viene richiamata ancora nel 500, vengono promulgati più e più volte decreti che stabilivano che solo gli uffici composti da doctores avevano l'obbligo del rispetto formale e letterale dello statuto. Cioè, laddove vi era un doctor, questo era obbligato ad applicare lo statuto. Erano delle, diciamo, formule tradizionali che aveva elaborato la dottrina, diciamo, a livello di difesa dello statuto. Pro ut litera iacent statuta e così via, de prohibito in extrinseco intellecto in statutis. Mentre, diciamo, le curie formate da mercanti, da notai, da illiterati, da laici, come viene talvolta scritto, possono anche non applicare lo statuto e di questo non saranno sindacati. Cioè il rispetto della legge è obbligatorio per il doctor, mentre il mercante, il laico, l'illiterato può giudicare secondo il suo arbitrium, secondo i criteri di equità. Quell'equità dei mercanti su cui Paolo di Castro appunto aveva avuto quelle parole così dure. Vi rubo ancora 5 minuti e vi dispenso dal 500, ma volevo dire qualcosa sul problema del diritto mercantile. La mercanzia. Anche a Genova vi era un ufficio di mercanzia, ovviamente. Ma, diciamo così, a Genova non vi era uno ius mercatorum. Perché vi era questo ufficio di mercanzia e non vi era uno ius mercatorum? Il motivo per cui si può dire che non vi era uno ius mercatorum era il fatto, io penso, la spiegazione più plausibile, è che tutti facevano i mercanti. Cioè, a differenza di altre città, non vi è un'arte, una corporazione, un collegio dei mercanti. Il Cardinal Morone, quando venne a Genova durante le guerre civili nel 1575, chiese a un certo punto la matricola dei mercanti e dice: ma a Genova la matricola dei mercanti non esiste. Questo è stato anche recepito, elaborato a livello di dottrina giuridica, da una sentenza della rota genovese di metà Cinquecento, poi ripresa dallo Scacce, quindi poi si ritrova in tutta la trattatistica prima e dopo lo Scacce. Si dice genuensis ergo mercator. Ora, questo cosa comportava? Può essere un aspetto così di colore. Comportava che nei confronti dell'universo cittadino valevano quegli istituti che invece in altre città valevano solo per i mercatores. Gli unici problemi sorgeranno nei confronti delle donne. Vi sono sentenze che dicono che la donna non può fare commerci e quindi non ha, per esempio, diritto a determinati interessi. Vi sono sentenze della rota di Genova che, invece, siccome è stato provato in modo testimoniale che la donna faceva attività commerciale, quindi ha diritto a un certo tipo di trattamento. Quindi non vi è uno ius mercatorum perché vi sono tutti hanno la possibilità di fare liberamente i mercanti, non vi è un'arte. e quindi la mercanzia assume anche un aspetto particolare. Mentre in molte città la mercanzia è espressione o di un'arte o dell'insieme delle arti, l'ufficio di mercanzia a Genova è un ufficio del comune. Viene scelto e nominato da, in vari modi e procedure a seconda dei tempi, ma viene scelto e nominato dal Consiglio degli Anziani, oppure da coloro che c'erano che nominano i propri successori, e che vengono scelti sempre secondo quel criterio mezzi nobili, mezzi popolari. Quindi cos'è che Morone chiedeva la matricola dei mercanti? Jean Marot, quando arriva agli inizi del Cinquecento, al seguito di Luigi XII a Genova, e poi scrive il suo Voyage de Gênes, bene, nei suoi versi a un certo punto, rivolgendosi alla nobiltà, dice: ma cosa vuoi dimostrare tu la tua gentillesse? Marchandise fut première racine. Cioè, il nobile genovese, agli occhi di un intellettuale d'Oltralpe, non era affatto un nobile, era un mercante. È per questo che ho detto la particolarità. La particolarità è che non vi è uno ius mercatorum separato, proprio perché vi è questo soggetto, diciamo, universale da un certo punto di vista, e quindi la mercanzia è un ufficio importante sì, ma che poi si occupa anche di questioni molto, diciamo, basse, di poca importanza rispetto ad altre situazioni. Dei grandi conflitti in tema commerciale sono investiti grandi tribunali. La rota nasce come tribunale che racchiude in sé anche tutte le competenze dei precedenti tribunali commerciali. E la riprova, diciamo così, è che quando vengono riscritti per la prima volta dopo quasi due secoli gli statuti civili, nella edizione appunto del 1588-89, noi ritroviamo che viene di nuovo riassorbito il problema del diritto commerciale. Il diritto commerciale entra a far parte in modo sistematico, questa volta, del quarto libro degli statuti civili. Mi scuso della lunghezza e di non aver rispettato la scaletta, ma ho parlato anche troppo. Ich wollte an und für sich keinen Diskussionsbeitrag leisten, sondern zunächst einfach eine Frage stellen. Es kann sein, dass Sie sie auch schon beantwortet haben während Ihres Vortrags und ich sie bloß nicht verstanden habe. Meine Frage ist, in welcher Sprache sind die Regulae und Capitula denn abgefasst? Denn das Terminologische spielt doch eine recht große Rolle. Sind Sie lateinisch formuliert, die Statuten, oder wann gehen Sie denn ins Italienische über? Bis zum Ende? Aber der offizielle Text ist Latein, bleibt Latein. Das ist ja doch sehr bemerkenswert, aus unserer Sicht. Io vorrei rivolgere qualche domanda a Savelli a partire sostanzialmente dalla fine dell'intervento, rimarcando però prima come sia molto interessante, molto importante secondo me questo elemento che è emerso in maniera molto chiara dal suo intervento, della pluralità delle istanze di giudizio al di là presente nella società genovese, e io credo non solo in quella genovese, in molte altre, nel 3-400, oltre diciamo i fori, i grandi tribunali. Questa pluralità di istanze che dicono, che fanno giustizia, no? Dice Savelli, viene in qualche maniera, non so ecco se annullata, questo lo chiedo a lui, con la nascita della rota, no? Nella prima metà del Cinquecento. Da situazioni specifiche, locali, che io presente per le ricerche che faccio e anche da alcune cose insomma, che sono note per ricerche di altri, mi sembra che potrebbe essere interessante vedere in che maniera, per esempio, un tribunale come la Rota assorbe le funzioni delle istanze giudiziarie precedenti. Io credo che in molti casi, per esempio si parlava di uffici, questi uffici rimangano di nome, di fatto anche, però con funzioni e competenze molto mutate, nella maggior parte dei casi, direi sempre per gli esempi che ho presente io, completamente svuotate. E però anche in questo caso mi sembra che possa essere interessante vedere allora come gli statuti, in questo caso regole e capitoli naturalmente, no? Manteniamo questa distinzione tipicamente genovese, continuano a essere utilizzati e in che misura nelle istanze giudiziarie, diciamo minori, insomma per intenderci, che rimangono funzionanti e fino a che punto e in che maniera, se diversamente dalla Rota. Dunque, diciamo che primo problema, se la pluralità di istanze viene annullata dalla Rota, la risposta va fatta in modo articolato, nel senso che quando viene fondata la Rota civile a Genova nel 1529-1530, come avevo messo nello schema, assorbe le competenze di mercanzia, robaria, gazzaria, ufficio di banchi e questi boni viri de tabula, più una parte delle competenze sul fallimento e una parte di questa magistratura che ebbe una vita brevissima degli anziani, durò sostanzialmente un anno. Ora, dopo la costituzione della Rota, questi uffici non esistono più, questi in particolare, mercanzia, robaria, gazzaria, banchi, boni viri. Come avevo già accennato, invece l'ufficio dei rotti che si occupava della materia fallimentare ha una vita molto travagliata e complessa che è ancora sostanzialmente da ricostruire. Quindi da quella data in avanti la Rota, come dicono appunto le regole della sua costituzione, le costituzioni srote, deve decidere tutte le cause che prima, fino ad allora, decidevano quegli uffici secondo le loro regole, secondo le loro procedure. Quindi da questo punto di vista la creazione della Rota civile fu effettivamente un importante fatto di concentrazione delle competenze della giurisdizione. Del tutto diverso è invece il caso della Rota criminale. La Rota criminale fu creata a Genova alla fine del Cinquecento, nel 1576, e nacque su un progetto, anche questo, all'insegna della unificazione e della concentrazione dei poteri. Le leggi costituzionali del 1576 hanno appunto una parte dedicata alla creazione della Rota criminale, in cui viene stabilito che presso questo tribunale risieda ogni giurisdizione criminale in modo esclusivo. Cioè il decreto istitutivo ha una storia che io ho ricostruito in un saggio, è appunto un decreto che crea un tribunale unico per le materie di tipo penale, per lo Stato, per la città di Genova e di, contemporaneamente come tribunale di appello per tutto il dominio. Questa esperienza però durò un anno e mezzo, nel senso che a partire dal 1578 progressivamente, con una serie di decreti successivi, furono restituite buona parte delle competenze giurisdizionali alla maggior parte degli uffici cittadini. Non tutti, ma quasi tutti. Quindi si ritornò a una situazione in cui la rota affiancava le magistrature cittadine. Quelle magistrature che erano così importanti dal punto di vista del, del disciplinamento, del controllo, del funzionamento amministrativo, l'abbondanza, i poveri e così via. Quindi sono due esperienze diverse. Una è un'esperienza che resta e che sostanzialmente non sarà più toccata. Campo civile, la rota funziona sostanzialmente con aggiustamenti, modifiche, ma funziona fino al 700. La rota criminale nasce come grande progetto, forse troppo avanzato rispetto a quella che erano le possibilità dello Stato genovese, o comunque gli equilibri del potere interno alla città, e da subito non funzionò. Diciamo, l'attacco al sistema rotale voluto a livello di trattative internazionali fu un attacco concentrico da un punto di vista formale, nel senso che furono promulgate tutte queste leggi con cui venivano tolte competenze o venivano restituite, ecco, diciamo più che tolte, venivano restituite anche alle altri uffici cittadini formati da non dottori. Vi fu poi anche, diciamo, un attacco politico personale. I primi giudici della rota finirono tutti in prigione perché furono accusati di aver fatto cose non perfettamente in regola, ma fu sostanzialmente un modo per dire: la rota c'è, l'hanno voluta il Papa, il Re di Spagna e l'Impero, però in città chi comanda è il Senato. Quindi era, diciamo, una, su un incidente di percorso, la prima rota fu messa in prigione, poi furono liberati, ne furono, furono eletti i loro successori tranquillamente, ma senz'altro senza più velleità di essere un tribunale centrale dal punto di vista del diritto penale. Come venivano assorbite le funzioni delle istanze precedenti? Questo direi che è abbastanza difficile da rispondere, diciamo che do delle impressioni, impressioni che derivano da questo fatto che per questi tribunali, compresa la rota civile, non sono rimasti fondi archivistici omogenei, cioè se uno oggi va a cercare nell'archivio di Stato di Genova un fondo rota civile, se riesce a superare gli ostacoli frapposti dagli archivisti, scopre che c'è anche un piccolissimo fondo chiamato rota civile, ma in cui sono state raccolte in epoca tarda, tra 6 e 700, solo alcune sentenze, cioè è una quarantina di volumi di sentenze. Tutta l'attività giurisdizionale è invece dispersa nel fondo dei notai giudiziari, cioè il cancelliere della rota era un notaio giudiziario che un giorno faceva il notaio per la rota, la settimana dopo lo faceva per, o l'anno dopo, per il magistrato di terraferma, l'anno dopo lo faceva per l'abbondanza, per cui è difficilissimo ricostruire il funzionamento di questo ufficio, proprio perché non vi sono fascicoli processuali, ci sono frammenti di processi e spesso non si sa neanche quali fossero i cancellieri della rota. Quindi i notai giudiziari talvolta mettono delle indicazioni a fianco notaio della rota, ma poi uno va a aprire il pacco e trova tutte altre cose. Quindi non saprei dire come effettivamente. L'impressione è che la normativa, quindi è un discorso di leggi, però soprattutto per le materie di tipo commercialistico, e questa direi una delle peculiarità, stabiliva che si proseguisse secondo i moduli e le forme degli uffici precedenti. La differenza è che gli uffici precedenti, ad esempio, promulgavano delle sentenze senza motivazione, mentre da una certa data in poi le sentenze della rota civile devono essere tutte motivate. Non a caso, quindi, nel 1582 sarà fatta la prima raccolta specializzata di sentenze in materia commercialistica, che ebbe un grandissimo successo editoriale, perché fu ristampata non solo in Francia, ma moltissime volte anche in Germania, con titoli magari cambiati, non ultimo quella di Mercator Jurisperitus. Proprio perché si vide in queste sentenze della rota civile genovese un momento importante di elaborazione diciamo, e di incontro fra il diritto colto dei doctores e le pratiche commerciali, finanziarie di una piazza, direi in quel momento al centro del mercato finanziario mondiale. Come usano lo statuto? Direi che lo usano come usavano i testi giuridici del tempo, cioè prendendolo e facendone quello che volevano. Cioè, sono cose che non si dovrebbero dire, però la mia impressione è che l'uso dello statuto, così come delle citazioni tratte dagli Iura Romana, erano sempre usi, come diceva sia Botero che Guicciardini, il lavoro del Guicciardini, diciamo in modo ancora più figurato, il lavoro del giurista non è di ragionare, ma è il lavoro dell'asino che deve portarsi tante cose sulle spalle, perché sono tanti volumi da cui deve scegliere le citazioni. Botero dice: vince chi cita di più, non chi ragiona. E così come si citava Bartolo, si citava il Corpus Iuris, così, diciamo, si citavano gli statuti. Certo è che gli statuti avevano diciamo un difensore che non avevano gli Iura Romana. Questa è la differenza. Uno poteva citare liberamente, anche magari falsificando Bartolo o un passo del Codex, mentre vi era chi difendeva lo statuto ed erano i sindacatori. Cioè questa magistratura di controllo, cui poi la rota, sia durante Munere, sia soprattutto alla fine del triennio, doveva rispondere. Infatti quando diciamo il caso è analogo all'esempio che io ho portato prima, quando ho detto che le magistrature formate da laici non erano tenute al rispetto dello statuto. Ho detto così ed è giusto. Vi era però una clausola in questa legge del 1491. La clausola diceva: a meno che la parte non presenti il testo dello statuto. Allora, se la parte presenta il testo dello statuto, il magistrato è obbligato a applicarlo. Questo è, direi, una risposta così un po' traballante, ma per il momento non saprei dire molto di più. Volevo intervenire su un paio di punti, cioè il primo su questa peculiarità genovese della distinzione appunto tra due tipologie testuali, capitolo e regole. E l'osservazione che mi veniva da fare era questa, cioè qual è sostanzialmente, qual è l'origine o il motivo per cui appunto a Genova si tende a appunto ad assumere una tipologia di questo genere per quanto riguarda la conservazione e la tradizione degli statuti, anche perché mi pare abbastanza indicativo il caso appunto del governatore Boussicault, che invece probabilmente, anzi certamente, ha in mente un'altra tipologia, un altro modello, e quindi riaccorpa, fa il tentativo di riaccorpamento che poi si sfilaccia di nuovo. È molto interessante, insomma, questa storia secolare di accorpamenti e di scorpamenti. Ecco, diciamo che l'intervento mio sarebbe quello di chiedere ulteriori, cioè proporre anche un po' un punto di vista comparativo sul problema appunto di esistenza di modelli, di tradizione di modelli anche testuali, di rapporti tra varie esperienze diverse. L'altro punto è invece che mi ha molto interessato, perché vi ho colto delle analogie dirette col caso che studio fiorentino, cioè questo delle magistrature laiche quattrocentesche, l'accerchiamento del podestà, quindi del doctores legato appunto allo statuto, cosa che per esempio anche Firenze si pone proprio in termini di crisi e di scomparsa di questo istituto, di questa istituzione, sostituito appunto dalle magistrature che vengono creandosi con la fine del 300 a Firenze, sostanzialmente, in questa direzione. E qui mi veniva appunto da fare, appunto, come contributo a comparativo sostanzialmente, ma magari può intervenire anche Vigiano, anche il caso veneziano si pone in questi termini, anche Isabella sul caso mantovano, insomma, sostanzialmente. Cioè, c'è una linea di fondo complessiva che quindi attiene all'organizzazione istituzionale, insomma, degli ordinamenti quattrocenteschi in materia giudiziaria. E l'ultimo punto sarebbe invece una richiesta di ulteriore spiegazione, perché probabilmente sono rimasto disattento io, cioè questo diritto commerciale che nel 200 appare inglobato nel capitolo, se non ho preso male l'appunto, che nel 300 invece tende a essere escluso, e quando invece poi parli di assenza di uno ius mercatorum, ecco, qui mi è rimasto un po' oscuro, voi per mia distrazione o ignoranza. Grazie. Partiamo da quest'ultima questione dello ius mercatorum, forse mi sono espresso non bene o impropriamente. Nel senso che non essendoci una corporazione o un'arte o una matricola dei mercanti, il modo per provare il fatto di essere mercante, quindi di essere un soggetto giuridico differente dagli altri, perché il problema è questo sostanzialmente, che lo ius mercatorum è un sistema che fa sì che vi siano dei soggetti giuridici diversi, dei soggetti con diritti diversi. Al mercante, il mercante può chiedere il lucro cessante, mentre il non mercante no, quando fa un prestito. Allora, il problema è che, non essendoci una matricola, non essendoci un'arte, il modo per far sì che uno venga riconosciuto come mercante e a livello di prove testimoniali, cioè da queste sentenze della rota civile, così come poi lo Scaccia, che appunto fu anche giudice della rota civile a Genova all'inizio del 600, emerge questa particolarità, che gli uomini e le donne d'affari genovesi, vien loro riconosciuto lo status di mercante in via probatoria, cioè portano dei testimoni. Ora, questo cosa comporta? Comporta, come diceva questa sentenza della rotta, che poi viene utilizzata da Scaccia e ha un grandissimo utilizzo dal punto di vista dottrinale fuori di Genova, fuori d'Italia, qual è la conseguenza? Se per essere qualificato mercante non è necessario essere iscritto a un'arte, ma basta avere dei testimoni che tu eserciti la mercatura, questo discorso può essere applicato teoricamente nei confronti di tutti. Cioè è uno dei problemi che io adesso sto studiando, e cioè come attraverso il modello genovese si siano rotti dei meccanismi di rigidità dal punto di vista delle teorie del diritto canonico. Visto che il genovese, di cui Scaccia e gli altri giuristi dicono genuensis ergo mercator, e Scaccia ha delle parole molto belle perché dice a Genova tutti fanno atti di commercio, nobili, popolari, donne, minori, chierici, cioè da questa immagine di questa città presa dalla febbre dell'oro, e sono gli anni 1550-1600, cioè prima delle grandi bancarotte del 1627. Se appunto non vi è questa connotazione per cui il genovese, tutti i genovesi possono fare atti di commercio, ora siccome genuensis non è una categoria di persone come poteva essere l'ebreo, perché aveva, quella era una connotazione antropologica, diciamo così, giuridico-antropologica, che lo poneva in una categoria di persone diverse. Non essendo il genovese come l'ebreo, chiunque teoricamente poteva essere equiparato. Quindi era un modo per liberalizzare. Infatti, io non l'ho, mi ha detto un collega spagnolo, che ci sono delle lettere dei Ruiz in cui trattano di questo problema dei modi di investimento e sostanzialmente del saggio del tasso di interesse che si potevano richiedere nei contratti finanziari, e uno di questi interlocutori dei Ruiz dice certo, se noi fossimo a Genova questo sarebbe lecito. Cioè viene posta una città che sostanzialmente rende leciti gli atti di commercio per tutte le persone. In questo senso, dicevo, vi è un superamento dello ius mercatorum come ius separato in quanto diritto di una categoria di persone organizzate in arte o in matricola. Capitolo e regole. Ora, questa è, direi, la domanda più difficile cui avevo cercato di non rispondere io stesso nella mia introduzione. Posso, la spiegazione può essere di due tipi. Una a livello lessicale. Pier Giovanni, nel suo lavoro sugli statuti civili e criminali, dice l'uso del termine regole è un uso che viene ripreso dal diritto canonico, e non a caso uno dei capitolatori appunto delle regole del 1363 è Riccardo da Pessina, che era uno che aveva studiato a Bologna e quindi aveva anche una formazione di tipo canonistico, e questo è senz'altro vero. Il problema è perché ci sono due testi di tipo distinto, indipendentemente dal fatto che vengano chiamate regole o non regole, perché da un certo punto in poi io credo che il termine regole entri nell'uso del linguaggio comune di cancelleria, di giuristi, di avvocati, di funzionari, ma che più non avevano minimamente riferimento a una cultura di tipo canonistico. Ecco, io credo che tengano distinti questi testi, soprattutto perché Genova ha una storia politico-costituzionale fra 300 e 400 particolarmente movimentata. Particolarmente movimentata nel senso che come dire, la stabilità fu acquisita dal punto di vista istituzionale sostanzialmente alla fine del Cinquecento. Prima abbiamo tentativi di assestamento, ma che si scontreranno sempre con il sistema, diciamo così, delle fazioni. Guicciardini, nelle storie d'Italia, dice che sono rimasti solo a Genova quelli che si chiamano Guelfi e Ghibellini, e appunto parlando del 1528. Ma Badate bene, ancora nel 1528 tutti gli uffici venivano distribuiti secondo la distinzione nobile popolari, guelfi e ghibellini, che era una categoria che, diciamo, uno si portava sostanzialmente dalla nascita. Quindi non aveva più nessun riferimento quella di guelfo e ghibellino, però c'era. Tutti gli uffici sono distribuiti fra guelfi e ghibellini. Nel 3-400 le lotte di fazione tra nobili e populares, tra guelfi e ghibellini, sono lotte molto accese, che porteranno a questo fatto, direi, abbastanza curioso, che certo non ha omologhi per Venezia o per altre città, ed è il fatto che far parte del patriziato, delle famiglie più importanti, sollecitano l'intervento delle grandi potenze e in cambio, diciamo, del posto di governatore cedono la sovranità. Francia, Monferrato, Milano per lunghi e alterni periodi esercitano la sovranità sul comune di Genova, sullo stato di genovese. Ora nominano governatori locali, ora nominano governatori loro nazionali come Boussicault, come Sagramoro Visconti o altri. Il motivo era quindi che vi era una grande conflittualità interna, non vi era un sistema ormai, diciamo, che andasse o verso la Repubblica, il modello veneziano, è direi esemplare da questo punto di vista, che l'analista che scrive tra la fine del 300 e l'inizio del 400, uno dei fratelli Stella, quando parla del dogato appunto di Nicola Guarco del 1382, dice che Nicola Guarco giurò di osservare le regole more venetorum. Cioè, il modello già nel 300 era, dice, facciamo come a Venezia, dove c'è un governo stabile. Le regole quindi erano quel testo che doveva garantire il sistema delle fazioni, sostanzialmente. Infatti uno dei punti direi più interessanti dello studio delle regole sono le procedure elettorali, nella loro così, cioè un aspetto assolutamente noioso e demenziale, diciamo così, di queste tecniche che sia di nomine di commissioni di elettori che nomino degli altri commissioni di elettori e così via. Sono molto interessanti perché invece ci dicono molto su come era organizzato il populus e su come erano organizzati i nobili, alberghi e organizzazioni di quartiere. Tanto è vero che nelle regole noi abbiamo delle forti oscillazioni fra questi due testi, gli unici due che sono rimasti di regole, quelle del 363 e quelle del 413. Nel 363, ad esempio, tutti i posti più importanti sono riservati ai solo populares, a parte il doge che così era sempre popolare fino al 528, ma gli anziani, le castellanie, i posti di governo nel dominio, le cancellerie erano tutte riservate ai populares, per motivi diversi naturalmente. Ma nel 413 invece ritorna il fatto che tutti i posti devono essere divisi a metà, metà nobili, metà populares. Quindi io credo che le regole vengono mantenute distinte, in parte perché più soggette a un certo tipo di revisione, e dall'altro, anche se non sono rimaste poi queste grandi revisioni, cioè tutte quelle trecentesche purtroppo sono andate perdute, quindi noi discorriamo solo su due testi sostanzialmente, che sono relativamente pochi. Dall'altro, io direi, garantivano questo equilibrio costituzionale dell'organizzazione cettuale, urbana della città. E quindi erano, diciamo, tenute distinte dal diritto civile, dal diritto commerciale, dal diritto penale. Scusa, ancora le magistrature laiche che accerchiano il podestà. E questo direi che è una il dibattito a Genova, diversamente da come si evolve sia a Venezia che a Firenze, diciamo, prendendoli come due modelli distinti. A Genova vi sarà sempre questo problema del rapporto fra diciamo, dottori cittadini e il podestà o il giudice di rota, nel senso che la tradizione faziosa spingeva a far sì che soprattutto le materie criminali fossero delegate a un giudice straniero. C'è un giurista genovese di fine degli anni 70 del 500 che appunto dice: io sono d'accordo che sia istituita la rota criminale formata da giudici forestieri, perché se il giudice fa delle parzialità, queste se le porta via con se stesso, cioè quando se ne va dopo 3 anni le sue parzialità se le porta con sé. Se invece il giudice fosse un cittadino, un patrizio genovese, è chiaro che le parzialità poi si riverserebbero dentro nel conflitto politico. Di diritto, cioè probabilmente c'è come fenomeno più generale questo concetto di Gesetzgebung simbolica. Ecco, anche a me era venuto il dubbio, tocco 3 o 4 punti e poi... Anch'io mi ero chiesto, quando tu parlavi di queste corti di giustizia minori, diciamo, se era un fatto quattrocentesco oppure no, come io avevo in mente che fosse. Cioè mi sembra che è nella tradizione di una quantità notevole di uffici dell'età comunale e dopo, di avere una propria giurisdizione, distinta, in qualche modo coordinata, ma non sempre, all'interno di... Ecco, anche a me pare che certe magistrature come quelle che ha studiato Zorzi abbiano un significato politico abbastanza diverso, insomma, no? E quindi, anche perché poi direi che questa pluralità di tribunali locali con competenze limitate minori è un fatto che dura nel 500, nel 600, in una quantità di tante piccole istanze. Per esempio, non ho fatto in tempo stamattina a leggere, ma se vediamo le competenze di certi collegi dei giuristi, vediamo che dai collegi di dottori di varie città emanano 3-4 tribunali speciali, mettiamo un dottore e 2 cittadini per 6 mesi, che si occupano di, non so, danni dati, oppure un dottore e un cittadino, cioè è una cosa che continua. Ecco, no, un problema più generale, cioè, però mi ponevo sempre in relazione a questo problema, a questi problemi appunto più complessivi che mi pare vanno tenuti presenti. La relazione di Savelli secondo me è stata interessantissima. Questo purtroppo capitava. Il caso di Genova non permette, proprio perché si mantiene città-stato, di misurare una evoluzione del diritto che per altre città italiane ha delle scansioni col modificarsi delle strutture politiche, l'avvento degli stati regionali e così via. Ecco, io mi chiedevo, c'è qualcosa nonostante tutto che cambia in questa legislazione statutaria di Genova? Cioè, so che la domanda è generica e non riesco a formularla in modo diverso, provo a fare un esempio. Se non ho capito male, nel caso delle città tedesche si nota che fra 400 e 500 la recezione del diritto romano provoca una serie di riformazioni di legislazione cittadina che cambia in sostanza alcuni caratteri della normativa urbana. Non so se mi sono spiegato. Cioè c'è uno sviluppo, diciamo, endogeno che però produce via via col passare del tempo forme di diritto diverse da quelle che erano. Ecco, questo si può misurare oppure, mi rendo conto che è una domanda vaga e che non entra nel tipo di discorso che hai proposto tu. Dunque, sulla questione delle corti di giustizia minori e le magistrature alte, anch'io sono d'accordo che vanno tenuti distinti, cioè non so, gli 8 di guardia al Consiglio dei 10 è diverso dalle competenze che potevano avere l'ufficio dei poveri o l'abbondanza, cioè una cosa è il controllo che veniva nelle magistrature centrali dello Stato, che avevano anche questo potere repressivo penale e che appunto a Genova si cercò sempre di non mettere in atto. Nel senso che mentre vi era una sostanziale unanimità a far sì che tutti i diversi uffici avessero le loro competenze criminali, come scrisse un ecclesiastico, però era un funzionario, sostanzialmente ambasciatore genovese in Spagna, quando appunto si tolse alla Rota, appena istituita, il suo potere giurisdizionale complessivo, scrive alla Repubblica e dice: ho spiegato a Filippo II che questi uffici non possono funzionare se non hanno il coltello in mano. Quindi su questo benissimo. Diverso è invece dire che c'è una magistratura come gli 8 di guardia o il Consiglio dei 10. Si tentò a Genova, ad esempio, di attribuire agli inizi, proprio nel 1528, un potere repressivo generale a un organo di governo, ma restò sulla carta, nel senso che le cosiddette riforme di Andrea Doria attribuiscono al Collegio dei Procuratori, che era anche il collegio che aveva le competenze finanziarie di bilancio, la dizione è estremamente lata, dice: il potere di punire sia nelle cose che nella persona senza nessun ordine serbato qualsiasi persona che infranga le leggi, quindi un potere assoluto. Nella realtà, da quello che si può vedere sia dalle testimonianze della memorialistica sia dagli atti della magistratura, si traduceva sostanzialmente nel prendere i vagabondi, metterli sulle galere e mandarli poi nei paesi di origine delle riviere. Questo era il fatto. Tanto è vero che quando agli inizi del Seicento, di fronte al diffondersi in città della criminalità nobiliare, cioè fu un periodo di particolare irrequietezza sociale, la soluzione fu escogitata in modo abbastanza curioso, cioè alcuni chiedevano che appunto il Senato e i procuratori fossero investiti di poteri penali repressivi diretti, che saltassero i poteri della Rota, e si invece giunse a quella strana mutuazione dell'istituto del discolato da Lucca, per cui era il Consiglio che bandiva temporaneamente le persone sospette di avere commesso reati che non si potevano far reprimere in via ordinaria dalla Rota. Quindi tenere distinti, secondo me, è essenziale. E cosa cambia nella legislazione statutaria? Questo, secondo me, è un problema grosso, cioè bisognerebbe vedere, non dico articolo per articolo, direi tra le cose che possono aver colpito la mia ricostruzione, che appunto non ho fatto un confronto di tutti i capitoli, di tutti gli statuti. Beh, innanzitutto questa oscillazione delle materie commercialistiche e del come vengono recepiti istituti nuovi. Prima questione. Seconda questione, il problema della, direi che viene il problema dell'amministrazione, di quelle forme di amministrazione della giustizia per le cause all'interno delle famiglie o dei consorzi familiari. Cioè vi è un mentre negli statuti del 1375 non vi è niente di specifico, invece a partire da quelli del 413-14 che recepiscono un decreto del fine 300, compare questo statuto delle dice, le cause delle questioni di albergo, cioè albergo era una struttura consortile nobiliare. In effetti poi il titolo parla solo degli alberghi, mentre all'interno del corpo dello statuto si parla di tutte le questioni che riguardano conflitti intrafamiliari e che vengono delegate appunto a persone scelte o fra la famiglia o fra amici, che era un istituto diffusissimo. Cioè questo trattato di un giurista padovano degli inizi del Cinquecento, il Bianchi, appunto dei compromessi per le questioni familiari, che appunto dà un quadro all'inizio abbastanza curioso, interessante, come si volesse giustificare del fatto che affrontava, secondo lo stile del trattato, una questione statutaria. Questo secondo me è un problema che viene fuori come una certa novità all'inizio del 400 e che però sarà mantenuta fino alla fine. La innovazione forse più che a livello di statuti è di organi. Cioè, quando all'inizio del 500 viene creata la rota civile, lì noi abbiamo una concentrazione, cioè non tanto di materie ma di procedure. Direi che forse questo, più che l'aspetto di diritto sostanziale, sono gli organi e le procedure che cambiano. Grazie, questo è molto interessante. Cosa facciamo? Ci sono altre... Piero, tu dici? Ci siamo guadagnati... Allora, benissimo, se non ci sono altri, domani alle 9 e stasera alle 8. Geschichtswissenschaft und also besonders auch die Rechtsgeschichte im Klaren darüber ist, dass das Problem der hermeneutischen Diskontinuität hier eine besondere Rolle spielt. Es hat sich seit langem schon ergeben, dass die heutige Begrifflichkeit potenziell geeignet ist, den Zugang zu den historischen Erscheinungen zu erschweren, weil wir heute anderes mit diesen Begriffen bezeichnen, als es die Vergangenheit selbst getan hat und wiederum wir möglicherweise etwas meinen, was so nicht in der Vergangenheit vorhanden gewesen ist. Nun ist dieses Problem bekannt und um nicht durch methodologische Vorüberlegungen zu viel Raum zu verlieren, reicht es aus, meine ich, hier darauf hinzuweisen, zwar darauf, dass auch der Referent, also ich, dieses hermeneutischen Problems bewusst bin. Außerdem wird nicht allzu viel bei der Diskussion dieser bekannten Frage herauskommen. Ich konzentriere mein Referat auf mittel- und ostdeutsche Städte und greife mir vor allem heraus die Stadt Breslau, die wichtigste Stadt in Schlesien, dann als Parallele teilweise Lübeck und etwas gelegentlich Magdeburg. Ich darf das rechtfertigen. Lübeck ist auf der einen Seite ein Oberhof besonderer Art. Ich muss vielleicht zwei, drei Worte zu diesem Begriff Oberhof hier verlieren, nicht für die Rechtshistoriker, sondern für diejenigen Damen und Herren, die mit der Rechtsgeschichte nur am Rande sich beschäftigen. Es handelt sich dabei um eine in sich differenzierte Erscheinung, die vereinfacht aussagt, dass eine Stadt ihr Stadtrecht an andere weitergibt. Diese anderen bekommen es sehr häufig bei der Gründung vom jeweiligen Stadtherrn, dem Landesherrn, als Privileg erteilt. Und aus dieser Beziehung zwischen einer Mutterstadt, statt etwa libyschen Rechts, das ist die technische Bezeichnung für das Stadtrecht der Stadt Lübeck, und den anderen, entwickelt sich dann auch ein System dauernder Rechtsanfragen aus den Tochterstädten an die Mutterstadt. Das nur sehr vereinfacht. Ich bin gerne bereit, etwa in der Diskussion diese Dinge noch näher zu erläutern, zumal sie in sich differenziert sind. Für Lübeck ist zu beachten die besondere Stellung als frühe Reichsstadt, doch mit Gründungstradition und mit einer Tradition auf einer slawischen Unterlage, also einer Vorgängerstadt, mindestens einer. Andererseits ergibt sich aus dem dadurch begründeten Fehlen eines Landesherrn, der Kaiser spielte diese Rolle nie, also der König, auch das Problem, dass sich im Bereich der Verwaltungshoheit eine ganze Reihe von Problemen nicht ergeben, die sich bei den sogenannten landsässigen Städten dann stellen und die vor allem am Beispiel Breslau von mir vorgeführt werden. Magdeburg ist ebenfalls Oberhof, von der Ausdehnung her wichtiger noch als Lübeck. Das Gebiet libyschen Rechts ist im Wesentlichen das der Ostseestädte der Hanse. Das Gebiet magdeburgischen Rechts ist dasjenige von der Elbe ostwärts über die Lausitzen, die Mark Brandenburg, hinein nach Schlesien, Pommern, Preußen, bis hin nach Polen, Litauen, der Ukraine. Breslau ist für mich besonders interessant, abgesehen davon, dass ich die Quellen bearbeite. Es ist eine Stadt, die landsässig ist und lebt hier viele Probleme vor, die sich auch bei anderen kleineren Städten ergeben. Es ist eine bedeutende Handelsstadt, Zentrum Schlesiens, Handelsknotenpunkt auf dem Weg einerseits von Osten, von Krakau, Richtung Prag-Nürnberg, aber auch von Nord nach Süd, von Danzig bis nach Ungarn. In Breslau sitzt sehr früh schon ein Bischof und man hat ein sehr direktes Verhältnis zum Landesherrn. Bis ins 14. Jahrhundert sind es Herzöge von Schlesien, dann wird es böhmisch-habsburgisch, um im 18. Jahrhundert im Rahmen der Kriege Friedrichs des Großen an den preußischen Staat zu fallen, aber das ist ein Zeitraum, der von mir nicht mehr berührt wird. Ich darf in diesem Zusammenhang bemerken, vor allem für diejenigen Damen und Herren, die sich mehr mit der italienischen Rechtsgeschichte befassen, dass sich für diesen Bereich Nord- und Ostdeutschlands im Grunde eine zeitliche Verschiebung von nahezu 100 Jahren zu der gleichzeitigen Entwicklung in Italien ergibt. Auf sozialer Ebene, politischer, wirtschaftlicher. Und im Übrigen ist im Bereich Italien doch manches sehr viel größer. Breslau ist nun eine große Stadt, daneben ist aber nicht zu verkennen, dass viele dieser Städte des deutschen Ostens und ebenso Polens und noch weiter, dass es sich dabei um kleine Ackerbürgerstädte handelt, eines Zuschnitts, der sie vom sozialen Bereich, gestern klang das schon an, provoziert durch eine Bemerkung von Herrn Kollegen Schlosser, die sich im Grunde nicht sehr unterscheiden, soziologisch, nicht rechtlich, von größeren Dörfern. Dieser Unterschied sollte beachtet werden. Zunächst zum Problem der Gesetzgebung. Es ist verdienstvoll erarbeitetes Ergebnis moderner rechtshistorischer Forschung, gerade im Bereich der städtischen Gesetzgebung das vertragliche Element, die Willkür, technischer Begriff, oder Einung als zentralen Aufhänger obrigkeitlichen Gestaltens erkannt zu haben. Ich möchte jedoch bei diesem Idealtypus, dessen Entdeckung, wie gesagt, eine großartige Leistung war, nicht stehen bleiben. Es interessiert die Entwicklung in der zeitlichen Längsachse, Wirkung und Gründe. Es ist dabei zu beachten, dass diese vertragliche Gestaltung, die Willkür, jedenfalls in ihren Frühformen fast durchweg nicht als solche auftritt, sondern im Gewande einer anderen Rechtsquellenart, nämlich als Privileg. Dies ist vor allem für die Gründungsstädte des deutschen Ostens und Nordens klar erkennbar. Musterbeispiel ist gerade dafür Breslau. Für die Frage der Gesetzgebung reduziere ich zunächst die Fragestellung auf das Wer, also die Frage nach der Kompetenz, zweitens auf das Wie, die Art und Weise der Rechtsetzung in der mittelalterlichen Stadt und schließlich das Worüber, also die Gegenstände dieser Rechtsetzung. Sie wollen quis, quomodo, quod. Zur Erinnerung einige historische Fakten. Ich bemühe mich, verhältnismäßig konkret die Entwicklung der konkreten Stadt zu demonstrieren, aus der wir dann Allgemeineres ableiten können. Breslau selbst ist als Siedlungskontinuum schon in vorslawischer Zeit bezeugt. Im Jahre 1000 erfolgt die erste Nennung durch Dietmar von Merseburg als Bischofssitz. Möglicherweise ist die Gründung Breslaus ein Ergebnis der Tätigkeit eines Böhmenherzogs namens Vratislav, gestorben 921. Unmittelbar nach dem Mongolensturm von 1241 ist die Stadt als deutsche Stadt zu Magdeburger Recht gegründet worden. Vielleicht haben wir von diesem ersten Gründungsakt im sogenannten Magdeburg-Goldberger Recht noch einen Text Zeugen. Die erste Bewidmung mit Magdeburger Recht aus dem Jahre 1261 erfolgt durch Privileg. Die bekannte Rechtsmitteilung selbst schließt dann im ersten Teil, das ist eine etwas komplizierte Textgeschichte, die ich hier nicht im Detail vorführe, konsequent mit einem Besiegelungsvermerk, dass die Magdeburger Schöffen dieses Recht dem edlen Fürsten Herzog Heinrich und seinen Bürgern gegeben habe. Zum Wort Schöffen ist die technische Bezeichnung für das Burggrafengericht in Magdeburg. Für die Magdeburger Stadtverfassung ist die Existenz eines Schöffengerichts, häufig 11, gelegentlich 7 oder weniger, dazu den Richter, also die Trennung, die germanisch-deutsche Trennung von Richter und Urteiler ist hier zu beachten. Neben dem Rat der Stadt, der im Laufe der Entwicklung die meisten Kompetenzen außerhalb der Rechtsprechung an sich zieht, kennzeichnend. Anders in Lübeck, wo es keine Schöffen gibt. Schöffenskabini ist der lateinische Ausdruck. Erst die zweite Rechtsweisung von 1295 erfolgt dann ohne Mitwirkung des Herzogs. Ähnlich sind die meisten Zeugnisse städtischer Autonomie zunächst als Privilegien überliefert, wovon ich als bekannteste im Altreich nur diejenige des Welfenherzogs Ottos des Kindes in Niedersachsen anführe. Privilegien haben bekanntlich zwei Ebenen rechtlicher Geltung. Die Berechtigung des Privilegierten gegenüber dem Privilegerteiler als subjektives Recht und die Respektierung der Allgemeinheit, die sich insoweit als negative Drittwirkung bezeichnen lässt. Liefert der zweite Aspekt die Möglichkeit, das entstehende Stadtrecht gegenüber der Außenrechtslandschaft, dem Landrecht vor allem, abzugrenzen, so verdient für die Herausbildung der innerstädtischen Autonomie der erste Aspekt, also die subjektive Berechtigung gegenüber dem Stadtherrn, Beachtung. Die Zubilligung nämlich eines solchen subjektiven Rechts, dem die Respektierungspflicht des Privilegienerteilers entspricht, eröffnet den Raum, innerhalb dessen sich die Stadtgemeinde im Wege der Verwillkürung Rechtssätze schaffen kann, deren personelle Reichweite durch den Beitritt zur Schwurgenossenschaft der Bürger eröffnet wird. Gerade für Breslau wird dies schon in der Bewidmungsurkunde von 1261, die ihrerseits nicht zu verwechseln ist mit der inhaltlichen Rechtsmitteilung seitens der Magdeburger an Breslau aus demselben Jahr. Es gibt also ein Privileg des Herzogs für die Stadt und darauf gestützt die Erteilung des Rechts der Magdeburger an die Stadt, das sind zwei verschiedene Dinge, bestätigt. In dem Privileg sollten die Ratsmannen, so ist es unmittelbar bestimmt, über das Magdeburger Recht hinaus alles, was im Interesse der Stadt ad civitatis honorem erforderlich sei, anordnen und festlegen. Struere et fundare. Dies bedeutet die Anerkennung des Willkürrechts durch den Herzog und die Zuweisung dieser Gesetzgebungsbefugnis, so darf ich das mal im Sinne des eingangs erwähnten Vorbehalts modern nennen, an den Rat der Stadt. Und das Grundgesetz der städtischen Willkürgesetzgebung selbst sieht dann in der Rechtsweisung vor, was der Sache nach Inhalt aller Stadtrechte magdeburgischen Charakters in Mittelalter und früher Neuzeit geworden ist. Ich zitiere in Übersetzung: Die Ratmannen legen ihr Burding, das ist die Bürgerversammlung in Gerichtsform, aus, wenn sie das wollen, mit Rat der weisesten Leute. Was sie dann zu dem oder in dem Burding geloben, das soll man halten. Wer das bricht, was man dort bricht, wogegen man dort verstößt, das sollen die Ratmannen fordern. Das ist eine deutsche Fassung und lateinische Fassungen dieser Form gibt es nur in sehr, sehr späten Übersetzungen. Ich darf nur erwähnen, diese Rechtsquellen sind sämtlicherseits nicht das Privileg, das ist lateinisch, aber die Rechtsmitteilung ist mittelhochdeutsch oder mittelniederdeutsch. Das ist ein schwieriges sprachliches Problem, das im 13. Jahrhundert bedingt durch die Kanzleien erfolgt. Es sind mit die ältesten Rechtstexte deutscher Sprache, also in Volkssprache, zeitlicher Verbindung. Es sind ja kaum 30 Jahre nach dem Sachsenspiegel und ihrerseits ist gerade diese Rechtsmitteilung der älteste datierte Textzeuge des mehrfach schon zitierten Sachsenspiegels. Diese Entwicklung ist geschildert worden in der Literatur. Der Beginn dieser städtischen Gesetzgebung ereignete sich im 13. Jahrhundert folgendermaßen, wobei ich auf die noch erhaltenen, wieder greifbaren Ratskataloge seit 1287 geführt, sowie Willküren, die seit 1321 unmittelbar überliefert sind. Älteres ist nur erschließbar, ich mich da stützen kann. Maßgeblich sind die sogenannten Geburdingsordnungen. Das war das, was ich eben erwähnte. Das Burding, also die Versammlung aller Bürger, und ich schildere hier zunächst den ältesten Zustand, er wird sich wandeln, wird von Dann habe ich noch einen dritten Punkt, der eigentlich schon eine Frage dann ist. Ich kenne sehr diesen italienischen Statuten sehr wenig. Am eindrucksvollsten fand ich die Provisionis von Bologna, die mir freundlicherweise Frau Kollegin de Benedictis einmal zugeschickt hat. Das sind Quellen aus dem Jahre 1475, die einen Ton anschlagen, der in Deutschland damals ganz undenkbar ist. Es ist ein juristisch durchgearbeitetes Gesetzeswerk mit Definitionsnormen und nur ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel mit einer Vorschrift, die also alle Privilegien aufhebt, mit gewissen Ausnahmen. Das ist in Deutschland im Jahre 1475 ganz, ganz unvorstellbar, dass man sowas auffinden würde bei uns. Dafür ist die Gewohnheit viel zu heilig, das kann man schon sagen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das wäre schlicht Unrecht. Nun ist meine Frage, gibt es im Verlaufe der Rechtsgeschichte in Genua eigentlich in der letzten Phase, sagen wir in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, im 16. Jahrhundert, eine ähnliche Freiheit in der Gesetzgebung? Das würde mich interessieren, ob man das, ob dieser, das, was ich aus Bologna kennengelernt habe, ob das nun das Singuläres ist oder ob das eine generelle Erscheinung dieser ja souveränen Staaten schon geworden ist. Es war jetzt ein bisschen viel, Herr Sierra könnte das nicht so in Italienisch sagen, wenn Sie vielleicht noch ein bisschen unterstützen. No, non so, tu avrei certo capito tutto quello che. In ogni modo, io ho aperto, quindi mi permetto di dire. La questione è l'aspetto quantitativo che impedirebbe effettivamente qualsiasi possibilità di confronto fra il caso italiano e quello tedesco, cioè non esiste, non è immaginabile in nessun modo per nessuna città tedesca di poter disporre di una quantità di materiale normativo così ampia, così enorme come quella di cui disponiamo per le città italiane. Questo è un grosso, enorme punto di divaricazione iniziale. Invece un secondo punto mi pare di aver capito che stabilisce forse una maggior affinità fra le due situazioni è quella relativa alla alla difficoltà di distinguere fra il diritto consuetudinario, no? E un diritto invece propriamente come posso dire legislativo, ecco, cioè ecco proprio legge nel senso tecnico del termine. Secondo Bill of Rights è molto improprio, anche se riflette il nostro punto di vista di oggi, di assumere per quest'epoca una distinzione netta fra queste due due campi, insomma, diciamo così, del diritto, perché questi due campi interferiscono fra di loro continuamente e sono quindi tutto sommato abbastanza indistinti fra di loro. Fare una separazione netta sarebbe improprio. Questo mi sembra che valga, dovrebbe valere sia per l'Italia che per la Germania, mi pare un rilievo metodologico, ma di fatto. Il terzo punto è riferito a queste provisioni di Bologna che Willowite ha potuto vedere perché gliele ha mostrate l'Angela de Benedictis, che sono, se ho capito bene, della seconda metà del 400, sono 1477, ecco. E questo materiale che appunto Willowite ha un attimo visto dimostra una straordinaria un grosso intervento del giurista, no? Che elabora, che interviene appunto sul diritto in maniera molto libera e molto forzata, come dicevi tu mi pare anche all'inizio, cioè questi giuristi che sono come asini, si portano dietro le robe perché dobbiamo trovare stabilità così. Secondo Willowite, nella situazione tedesca, un atteggiamento così libero del giurista nei confronti del diritto è impensabile, cioè è molto difficile da pensare, perché mi pare di aver capito il dato giuridico conserva a lungo in Germania un carattere sacrale, per così dire, insomma, comunque di non modificabilità così solo, questo è quello che ho capito. Il diritto consuetudinario e il diritto legislativo statutario, in effetti io non ne ho parlato, però diciamo che vi era senz'altro una componente presente, nel senso che tutti quegli uffici composti da laici, da cittadini, da illiterati, per i quali non c'era l'obbligo, tra l'altro ad esempio, del rispetto dello statuto, è chiaro che giudicavano sì in base all'arbitrium, ma in base soprattutto a tradizioni, a usi, consuetudini. Direi che c'è un altro aspetto che è interessante, e che ci ricollega al discorso del diritto commerciale, e cioè quella che è, direi, sempre presente, è la consuetudo mercatorum, che è un meccanismo che interviene, ad esempio, anche nelle sentenze dotte per dimostrare la legittimità di atti che altrimenti non sarebbero legittimi. Quindi la consuetudo mercatorum è senz'altro un meccanismo attraverso cui entrano diciamo, nelle forme del diritto statutario e del diritto dotto universitario gli usi. Quali usi? Gli usi, e questa è una cosa che io ho ritrovato in queste sentenze della Rota di Genova, quelli che sono chiamati gli usi di piazza. Cioè, la piazza, cioè il mercato, ha i suoi usi e i giuristi devono adeguarsi a questi usi. Cioè, c'è un primato della consuetudine mercantile rispetto alla tradizione giuridica. La questione del poco rispetto del giurista, del pratico. Io forse un po' ecceduto nel riportare le citazioni di Botero e di Guicciardini, però più studio queste sentenze o anche questi consigli, io ricavo, sempre facendo la ricerca sulle citazioni, visto che era un sistema che si basava sulle citazioni, facendo le ricerche appunto sulle citazioni che noi troviamo nei dispositivi, nelle motivazioni, nelle argomentazioni dei consigli, io mi accorgo che, direi, nel 90% dei casi avevano ragione Guicciardini e Botero, cioè che questi utilizzavano in modo strumentale qualsiasi appiglio che gli veniva offerto. Cioè, se no non si spiegherebbe perché all'interno queste sentenze noi possiamo trovare citazioni da San Tommaso. Non c'è motivo di citare la Summa se non per il fatto perché è un'auctoritas come qualsiasi altro. Sì. Cioè, io penso che era il meccanismo argomentativo che faceva sì che, indipendentemente, c'era più serietà, minore serietà, ma se noi prendiamo la pratica, la praticaccia era proprio una praticaccia. Sì. Dunque, io volevo tornare su due punti che sono già stati sollevati da Giorgi, la relazione Sabella. Una è quella, quindi forse qui veramente bisogna distinguere, cioè, che la Rota genovese occupi anche questo tipo di problemi. Mi sembra veramente un caso di questo, è abbastanza unico. Il problema della magistratura. Prima esistesse una situazione in cui si tira l'infrazione nel campo di competenza di una data magistratura, che una magistratura non prima dovrebbe veramente essere molto certa. Perché mi sembra anche un problema, cioè una magistratura che si occupa di abbondanza, che mischia l'infrazione all'abbondanza, se così non fosse stato avremmo avuto un periodo di separazione dei poteri insospettabile. Forse potrebbe si dialogare anche perché in realtà non ha la prima Professor Willowhite hat diesen den quantitativen Aspekt der städtischen Gesetzgebung in Genua schon angesprochen, eigentlich mehr bewundernd. Ich frage mich ein bisschen skeptisch, das Stichwort ist schon gefallen, relativ instabile politische Verhältnisse in Genua im ausgehenden Mittelalter. Wie kommt es zu dieser unglaublichen Frequenz von Regula? Wenn wir uns das anschauen, von 1340 bis 1363 haben wir einen Zeitraum von 25 Jahren, drei verschiedene Kompendien, kann man vielleicht sagen. Und im Zeitraum von 100 Jahren, bis 1443 sind es sogar sechs. Also woran liegt diese Menge von Regulae, die doch offensichtlich, wenn ich das recht verstanden habe, quasi Konstitutionen des Staates Genua oder des Stadtstaates Genua darstellen. Insofern hier nämlich die Rede ist von Regulae als Statuten für politische und administrative Sachverhalte in der Stadt. Und zweitens, damit zusammenhängt die Frage, wer sind die Kompilatoren dieser Gesetzeswerke? Kompilatoren kann man vielleicht eigentlich nicht sagen. Die Frage ist wohl auch wesentlich beantwortet, wer die Leute sind. Dringlicher für mich die Frage, die mit der ersten zusammenhängt, aus welcher Notwendigkeit handeln diese Leute? Warum schreiben die in so relativ kurzer Zeit sechs Gesetzeswerke? Allora, vedendo, lei ha già nominato il fatto che lo stato città di Genova si trovava in quel periodo tardo medioevale in una relativa instabilità delle circostanze politiche. Comunque mi chiedo come mai questa frequenza altissima di regole, che nell'arco di 25 anni ce ne abbiamo tre, dal 1340 al 63 e addirittura fino al 1443 ce ne sono sei, e ulteriormente vedendo il resoconto qua, le regole sono statuti che comprendono soprattutto gli aspetti politici e amministrativi, sono costituzionali per lo Stato. Come mai questa frequenza? E poi chi sono queste persone qua, Simone Boccanegra, Negra eccetera, chi sono e per quali motivi agiscono? Allora, partiamo dall'ultimo. Simone Boccanegra e Giovanni da Murta sono dogi come gli altri. Io ho messo il nome del doge attraverso che identifica le regole. Purtroppo delle prime, come ho detto, non si sa niente, si sa solo che c'erano perché noi troviamo estratti che gli statutari facevano, ad esempio, diciamo, extractum, oppure in altre regole successive si dice la tal regola è stata presa dal volume delle regole del tempo di. Uno dei motivi per cui probabilmente soprattutto nella, diciamo, fase trecentesca facevano le regole, questa è un'ipotesi però di pura, così, senza nessun, suffragata da nessuna prova documentale, è che al cambiamento del doge, che più delle volte avveniva, era un cambiamento violento in conseguenza di conflitti tra nobili e popolari, anche se il doge era sempre popolare, si cambiassero. Diciamo che non era una promissione ducale, cioè non era come il giuramento che facevano a Venezia i dogi, ma senz'altro si cambiavano alcuni aspetti, ma il grosso delle regole restava uguale. In effetti, se noi guardiamo il testo delle regole del 1363 e quelle del 1413, l'impianto, le rubriche, i capitoli, diciamo, sono complessivamente molto simili. Ci sono in realtà tutta una serie di aggiustamenti. Completamente diverse invece sono quelle del 1442-43, e che sono molto brevi, cioè mentre le precedenti sono volumi con 130-160 paragrafi, queste del 1442-43 furono un tentativo di superare la tradizione ormai consolidata del doge adorno fregoso e di istituire appunto questi capitani di libertà. Queste regole sono un testo molto breve, di una ventina di pagine, che riformavano sostanzialmente il modo di distribuire gli uffici e di eleggere gli anziani. Dopo cambia il modo di fare. Ecco, nel Cinquecento non abbiamo più le regole, abbiamo dei testi, direi così, più di tipo costituzionale, non moderno, ma che comunque senz'altro non vogliono affrontare l'insieme del comune, come avveniva invece nelle regole trecentesche e inizi quattrocento. Si riformano settori dello Stato o dell'attività del comune. Ich möchte mich ganz kurz fassen zu dem Phänomen der Masse, der Menge dieser Statuten. Gibt es jedenfalls im Bereich Mitteleuropas eine Beobachtung, ein Phänomen? Man sagt, das Recht habe seine Geltungsschwäche oder das Recht gilt nicht, es kann sich nicht durchsetzen, deswegen wechselt ein Dekret, ein Mandat und wechselt das andere ab. Aus dem italienischen Bereich gibt es einen klassischen Zeugen, Dante. Er sagt über das Florenz, das er hasste, du unselige Stadt, die du die Edikte und Mandate, die du Ende Oktober erlässt, anfangs November bereits aufhebst. Dafür gibt es jetzt nun eine rechtstheoretische Erklärung, warum diese Menge, Geltungsschwäche. Und in der Rechtstheorie sagt man, das ist eine symbolische Gesetzgebung. Symbolische Gesetzgebung deswegen, weil, das haben Sie auch gesagt, die Obrigkeit ist nicht in der Lage, ihre Autorität so durchzusetzen, wie sie es möchte. Deswegen ersetzt sie den Mangel an Autorität durch Produktion von Gesetzen. Könnte es sein, meine Frage, dass dies Phänomen, das wir soweit bewundernd, Sie zweifelnd festgestellt haben, Masse, durch Geltungsschwäche und symbolische Gesetzgebung erklären ließe. Ich kann es leider. Direi che è un'ipotesi che ha una buona plausibilità, nel senso che non essendo riusciti a creare queste famiglie, direi un regime signorile come è avvenuto nelle altre parti d'Italia, né un governo diciamo sostanzialmente stabile come poteva esserci a Venezia, è chiaro che doveva esserci una maggiore regolamentazione, più o meno rispettata, ma che continuava a essere richiesta, proprio perché la conflittualità era maggiore. Io ho alcune considerazioni. Ecco, su questo ultimo punto non mi colpisce in particolare la quantità a Genova, perché ci sono dei casi, direi, di quantità molto superiori. Per esempio anche di statuti conservati. Ho in mente due casi, Parma e Bergamo, che per pochi decenni hanno tre o quattro redazioni totalmente conservate, e immagino ce ne siano ben di più. Ecco, quindi questa ultima spiegazione mi sembra suggestiva, ma non mi sembra che Genova sia un caso particolare di produzione di di diritto, cioè probabilmente c'è